Salva Danaio di Deborah Rosciani. Eccoci ritrovati a Salva Danaio, a tutti buona giornata da Deborah Rosciani. Oggi nel nostro programma torniamo a fare il punto sui mercati e nell'osservare la situazione in Europa non potevamo che soffermarci inevitabilmente sul caso greco. L'attesa per un lieto fine nella vicenda del debito sovrano di Atene si sta prolungando ormai da settimane, quasi come un'agonia, e ogni volta che le cose sembrano sistemarsi nascono nuove incertezze ed ambiguità, nuovi ostacoli, arrivano nuovi stop a vario titolo. A rivelarsi sempre più severa è proprio l'Europa, con l'Eurogruppo rimandato a lunedì prossimo, che dovrebbe arrivare ad una decisione definitiva, e perché si chiede ad Atene garanzie certe prima di sbloccare la seconda tranche di aiuti, compresa fra i 130 e i 145 miliardi di euro, essenziali per il paese che il 20 marzo dovrà fare i conti con la scadenza di bond e di obbligazioni governative per un totale di 14 miliardi e mezzo di euro. A complicare le cose poi anche la situazione politica della Grecia, con le elezioni politiche fissate per aprile che potrebbero, si teme, rimettere in discussione tutti gli accordi faticosamente raggiunti fra i partiti e votati dal Parlamento negli ultimi giorni, compreso, lo ricorderete, l'ultimo piano di rigidissima austerità. E allora oggi facciamo il punto sui mercati alla luce di queste preoccupazioni, di queste novità, cercando anche di capire cosa succederà ai piccoli risparmiatori che si trovano di fronte allo scenario della tanto discussa ristrutturazione del debito greco, anche perché il mercato appunto si è interrogato più volte se a queste figure potesse essere destinato appunto una soluzione diversa, circostanza che peraltro proprio gli ascoltatori a Salva Danaio avevano sollevato la scorsa settimana, quando abbiamo riaffrontato la questione della ristrutturazione del debito greco. Effettivamente l'ipotesi che i piccoli risparmiatori possano essere risparmiati dall'ERCAT del 70% appunto è stata presa in considerazione. Noi cercheremo di capire quali sono le condizioni oggettive che si dovrebbero determinare affinché i piccoli risparmiatori possano essere esclusi dalla maxi ristrutturazione, circostanza che comunque, lo ribadisco, lo voglio dire con grande chiarezza, solo un'ipotesi che non è mai stata praticata in passato per nessun tipo di bancarotta di paesi, ricorderete clamorosamente appunto il caso argentino, però insomma la discussione è sul tavolo e noi questa mattina ne parleremo. Però parleremo anche di mercato in termini più complessivi, perché il mercato non è solo Grecia. E allora magari ci sono in questo momento tanti piccoli risparmiatori ed investitori che cercano alternative di investimento interessanti, che magari non siano di breve o brevissimo periodo, e visto che ci sono anche delle situazioni interessanti sui mercati internazionali, basti ricordare che Wall Street sta viaggiando sui massimi da 3 anni, e allora chiaramente bisogna dedicare un po' di attenzione anche a questi ascoltatori che ci possono chiamare all'800240024. Adesso vi racconto anche quello che sta succedendo oggi in borsa, e prima di finire la voce completamente saluto i nostri ospiti di questa mattina. Andrea Ragaini, direttore centrale del Private Banking di Banca Carige, buongiorno. Buongiorno dottor Rex, buongiorno a tutti voi. Intanto io toschisto. Stamattina dovete avere un po' di pazienza con me, e saluto e ringrazio anche Giuseppe Marzi, un altro gradito ritorno a Salva Danaio, amministratore delegato di Schroders Italy SIM e responsabile Italia del Private Banking per questo grande appunto azienda anglosassone. Dottor Marzi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, ho ricordato il numero verde agli ascoltatori per poter intervenire in diretta, non ho ricordato invece le altre modalità per interagire con noi. La prima è il 349-238-6666, il numero per i vostri messaggi. Ci potete anche scrivere a salvadanaio@radio24.it o animare anche, scusate, il nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24. Adesso con la nostra scheda andiamo subito a riepilogare la situazione degli ultimi giorni. L'attesa per la soluzione della crisi greca sembra interminabile. Il 9 febbraio il governo greco ha annunciato il raggiungimento dell'accordo tra i 3 principali partiti politici sulle misure di austerità supplementari e le riforme richieste da Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale in cambio del nuovo pacchetto di aiuti da 130 miliardi di euro. Ma l'Europa non si è accontentata. Per ottenere l'ok a questo nuovo prestito non è bastata nemmeno l'approvazione dell'accordo da parte del Parlamento. Il voto, infatti, è solo una delle condizioni che l'Eurogruppo aveva posto alla Grecia prima di sbloccare gli aiuti. L'Europa, che sembra non fidarsi più delle promesse greche, sembra preoccupata soprattutto per le prossime elezioni, in programma per aprile, che potrebbero sovvertire tutti gli equilibri e le decisioni. Motivo per cui si è diffusa negli ultimi giorni anche un'ipotesi che vedrebbe l'effettiva formalizzazione della tranche di aiuti possibile solo a elezioni concluse. Atene però ha bisogno con una certa urgenza dell'appoggio finanziario di Bruxelles e dell'Eurogruppo. La scadenza a cui tutti guardano con preoccupazione è quella del 20 marzo, quando scadranno bond greci per 14,5 miliardi. Le preoccupazioni per il debito ellenico stanno così ricominciando a contagiare tutto il continente, dove è tornata a crescere negli ultimi giorni la tensione sui titoli di Stato, che ha riportato anche il nostro temuto spread al di sopra dei 400 punti base. Lo spread che stamattina invece per fortuna viaggia al di sotto di questo livello, siamo sui 373 punti base, lo abbiamo detto anche tante altre volte, un livello che comunque ancora non piace al governo, è ritenuto eccessivo, ma in ogni caso siamo sicuramente su livelli più ragionevoli rispetto a quelli che abbiamo visto nelle settimane precedenti. Peraltro stamattina il mercato ad un certo punto si è anche interrogato sulle motivazioni per cui Angela Merkel avesse deciso di annullare la sua visita a Roma e qualcuno ha ipotizzato che dovesse fare qualche annuncio di rompere sulla questione greca, invece così non è stato. Per fortuna per il mercato complessivamente, un po' meno per la Germania, che adesso chiaramente deve affrontare anche un altro problema politico. Ci sono state le dimissioni appunto del presidente Christian Wolff, ma detto questo il mercato oggi è sereno perché Parigi guadagna lo 0,92%, Francoforte più 0,80%, Londra più 0,24%, Milano più 0,63%. Vi racconto solo un paio di casi. Di Piazza Affari sta volando Finmeccanica in rialzo di 10 punti, il gruppo ha vinto una commessa molto importante in Israele e questa nazione appunto ha ordinato 30 M346 training jets, non ho la più pallida idea di che tipologia di ovviamente mezzi stiamo parlando, per un valore complessivo però di circa 1 miliardo di euro, pensate un po' che commessa, e quindi chiaramente il titolo sta volando. Per la Popolare di Milano più 4, Buzzi Unicem più 3,10, Pirelli più 3, in ribasso invece abbiamo le utilities stamattina con A2A che perde il 2,47%. Enel meno 1,62, Enel da qualche giorno molto bastonata dalle società di investimento, dagli analisti appunto che continuano a emettere giudizi negativi dopo JP Morgan ieri, adesso anche UBS ed Equita hanno rivisto al ribasso le stime della società. Euro su dollaro a 1,31,73. Allora andiamo subito a coinvolgere i nostri ospiti di questa mattina. Andrea Ragaini, direttore centrale del Private Banking di Banca Carige, ancora buongiorno, ci dica un po' lunedì secondo lei, secondo le vostre sensazioni, arriviamo ad uno sblocco definitivo delle decisioni dell'Eurogruppo sulla questione greca, anche perché se si dovesse avere il via libera al piano di aiuti è probabile che lo swap, cioè la ristrutturazione dei titoli, venga fatto rapidamente, potrebbe iniziare secondo quello che leggo addirittura il 22 febbraio per chiudersi il 9 marzo, per cui davvero abbiamo i giorni contati. Siamo arrivati ormai vicinissimi alla meta. In effetti il tema della Grecia è stato prolungato ed è stato gestito in modo molto molto differito nel tempo e a più riprese a più tappe, quindi ogni volta pensiamo che sia la tappa definitiva, ma in effetti non siamo mai vicini alla tappa finale. In effetti l'Eurogruppo dovrà decidere una decisione che non è certamente facile. Noi ci aspettiamo che alla fine prevalga il sì, e quindi noi ci aspettiamo che alla fine la seconda tranche di aiuti importante di 130 miliardi più i 15 che sono messi ancora in discussione poi arriveranno alla Grecia. Certamente in questi anni la Grecia non ha dato segnali neanche negli ultimi mesi di essere sempre così ferma nelle sue decisioni, soprattutto nel rispetto degli impegni assunti. Il costo del lavoro in Grecia dal 2004 al 2011 è salito del 26%, che è una media doppia rispetto a quella europea, e anche nel 2011, quando la Grecia era già comunque in una situazione di forte tensione, il costo del lavoro è continuato a salire fino alla prima parte dell'anno. Quindi certamente il problema è quello del rispetto degli impegni, e come diceva lei prima nella scheda, il problema delle elezioni in aprile porta un ulteriore elemento di incertezza in una situazione che già di incertezza ne ha tanta. Quindi ci aspettiamo che gli aiuti arrivino, purtroppo non mi aspetto che però la tensione sulla Grecia possa rientrare da lunedì in poi anche con l'arrivo degli aiuti. Un po' di sereno all'orizzonte arriverà, ma qualche nube c'è già in vista. Quali per esempio? le elezioni di aprile, vi ricordate tutti il referendum che era stato proposto in un weekend e poi ritirato il lunedì mattina su pressione della Germania, e il referendum in effetti dava la possibilità al popolo greco di esprimersi in modo libero se accettare di rimanere nell'euro e fare dei grossi sacrifici per i prossimi 20 anni, oppure fare un salto che è sicuramente un salto nel buio, ma che agli occhi dell'opinione pubblica di massa potrebbe non essere così nel buio, cioè tra una situazione molto brutta e una situazione ancora più brutta ma che non si conosce, magari si preferisce la seconda ipotesi, sbagliando rispetto alla prima. Quindi le elezioni anticipate, con tutto il populismo sull'Europa no che ne potrebbe conseguire, certamente rappresenta un'incognita ancora più forte forse dell'incognita della tranche. Ma lei addirittura immagina che possa succedere quello che è successo per quel famoso referendum, cioè che addirittura si possa fare una marcia indietro sulla decisione di andare a nuove elezioni proprio per il timore del risultato elettorale? Ma sai, nel momento in cui ci sono poi delle tornate elettorali, ci sono dei partiti e ci sono degli opinion leader che si collocano poi su delle decisioni forti, su temi forti, e questo è il tema forte che la Grecia vive in questo momento. Quindi non si può escludere che non ci sia un partito che decida di cavalcare l'antieuropeismo, che in alcuni casi, l'abbiamo visto nelle piazze greche, è già ampiamente sceso in piazza. Giuseppe Marsi, come valuta le considerazioni che abbiamo fatto fino a questo momento? Tutto sommato la borsa sembra crederci che lo faccia forzatamente, o che sia anche, come dire, un'indicazione che la borsa dà nel tentativo di spiegare all'Eurogruppo che è necessario che questo accordo si arrivi lunedì e che si faccia presto, appunto, per l'erogazione di questo pacchetto di aiuto finanziario alla Grecia. Siamo davvero più sereni, o comunque le incognite alla porta avranno di nuovo la meglio a partire dall'inizio della prossima settimana? Ma io direi che sono concorde con quanto ha detto Ragaini. Io credo che la situazione in Grecia, solo i greci potranno decidere come evolverà, e immagino che per chi sta perdendo il lavoro, perché dobbiamo anche ricordarci di quello, per le migliaia di persone che stanno perdendo il lavoro, l'alternativa alla perdita del lavoro potrebbe essere addirittura migliore, no? Quindi dall'Unione Europea come una situazione forse di un'incognita, sì, ma forse meno pesante di quella che è all'attuale perdita del lavoro per loro. Quindi io non sottovaluterei veramente la situazione sociale, che credo sia quella che dovrebbe preoccupare tutta l'Europa, e che è una situazione sociale che parte, a mio parere, dalla situazione del Nord Africa in genere, che ha portato a questa discrepanza tra politica e popolo, e che sta di fatto espandendosi con altre vesti, ma di fatto l'abbiamo visto in Italia con un partito tecnocratico e con un popolo che anche in Italia si inizia a domandare quale sia il futuro. Quindi la Grecia, anche se piccola, credo che socialmente, come situazioni proprio sociali di scontri sociali, potrebbe essere il grande segnale per tutta l'Europa. Lo abbiamo detto più volte che comunque è stato un focolaio costantemente acceso e lungamente anche tenuto scarsamente in considerazione, perché questa crisi si trascina da 2 anni. Abbiamo detto anche più volte che se si fosse arrivati ad una protezione del resto d'Europa da questa crisi in tempi non sospetti, appunto, forse il costo di questo salvataggio sarebbe stato sicuramente inferiore rispetto a quello che adesso tutti i contribuenti europei, appunto, saranno chiamati a pagare. Io auspico che comunque questo salvataggio si vada, perché non perché sono contenta naturalmente che i greci paghino questa situazione, ma perché forse l'effetto domino sarebbe molto più drammatico rispetto, appunto, alla singola crisi greca. È una considerazione, appunto, molto generica, che chiaramente necessiterebbe di un approfondimento molto più importante. Adesso noi però ci dobbiamo limitare, appunto, agli aspetti di mercato, data la nostra trasmissione. Eccoci ritrovati a Salva Danaio, che oggi esplora di nuovo le condizioni dei mercati finanziari internazionali alla luce delle novità che sono arrivate e che arriveranno sulla risoluzione della crisi greca. Attendiamo trepidanti questo Eurogruppo di lunedì prossimo per capire se ci sono le condizioni, se la Grecia è in grado, appunto, di soddisfare tutte le condizioni richieste dalla famosa Troica, Fondo Monetario Internazionale, BCE, appunto, ed Eurozona, condizioni, appunto, di sacrifici molto forti che però sono necessarie. necessarie appunto per poter ottenere un nuovo pacchetto di aiuti finanziari che sono necessari non solo per rimborsare i bond greci in scadenza a fine marzo, 14 miliardi e mezzo di euro, ma anche per pagare gli stipendi, la spesa pubblica appunto sono 130-145 miliardi di euro appunto complessivi in questo secondo pacchetto di cui la Grecia ha bisogno. C'è un ascoltatore, Andrea Ragaini, Banca Carige, torno a lei, che fa questo commento, vorrei un po' allargarlo, però in molti si interrogano sempre su questo atteggiamento molto cinico che i mercati finanziari hanno di fronte anche a queste situazioni così gravi. Le borse volano mentre i greci sono alla fame, questa Europa è infame. Allora, le borse volano relativamente, sono reduci intanto soprattutto da una seconda parte del 2011 che è stata pesantissima e noi lo ricordiamo molto bene perché ha danneggiato soprattutto gli investimenti appunto dal punto di vista italiano, Piazza Affari, le vicende dello spread ed altro ancora. Sono in recupero rispetto all'inizio dell'anno perché, sono in recupero perché Milano guadagna qualcosa come il 10% da gennaio scorso, però insomma da un anno a questa parte è ancora sotto del 30%. Voleva commentare questa riflessione dell'ascoltatore? Certo, i mercati finanziari scontano sempre un anticipo temporale rispetto ai cicli economici in modo strutturale, quindi c'è un anticipo rispetto a quello che ci si aspetta a livello di andamento di economia reale che i mercati finanziari anticipano con un flag di 6 mesi, 8 mesi, 12 mesi. Questa è la prima riflessione, quindi anche se vediamo dei numeri che stanno andando male, possiamo vedere, tante volte è successo nel passato, di vedere i mercati finanziari e azionari in particolare che vanno bene. Questo è il primo tema. Il secondo tema, che un po' si avvicina al cinismo di cui parlava il radioascoltatore prima, è dovuto al fatto che purtroppo negli ultimi anni abbiamo costruito sempre e sempre più finanza. Nel mondo ci sono 60.000 miliardi di PIL e ci sono 600.000 miliardi, quindi 10 volte tanto di attività finanziaria, e quando ci sono volumi così importanti evidentemente l'economia reale, che è il primo piano, ha 9 piani sopra la sua testa che si muovono in anticipo rispetto a quello che è l'andamento stesso dell'economia reale. Poi i grossi flussi si muovono in situazioni anomale talvolta, in situazioni di notizie anche drammatiche come quelle che arrivano dalla Grecia, però purtroppo il mondo che abbiamo creato è questo. No, devo dire che in qualche maniera anche per fortuna che le borse viaggiano bene anche nonostante queste situazioni, perché comunque le borse non è che siano fatte solamente di questioni greco, di situazioni appunto problematiche, ci sono aziende quotate che godono di ottima salute, vi faccio appunto il caso di Finmeccanica di questa mattina che chiaramente ha un business talmente globalizzato, internazionalizzato appunto in particolare, che riesce chiaramente a volare, come diceva l'ascoltatore, a prescindere dalle questioni del debito sovrano, no? Marsi, voleva aggiungere qualcosa, mi piacerebbe anche un suo commento su questo. Ma sì, il commento è che non scordiamoci che però 3 mesi fa davamo quasi tutte le banche europee come fallite, per cui la verità è questa ripresa che è essenzialmente concentrata poi sugli attivi bancari, sulle azioni bancarie, assicurative. È una ripresa dovuta al fatto che la BCE ha fatto un passo importantissimo e ne farà un altro a breve, assolutamente molto importante. In tutte le situazioni dove si deve fare liquidità ai mercati, i mercati azionari poi sono saliti perché c'è una situazione di percezione del rischio che scende e quindi questo produce l'effetto che stiamo vedendo. Allora, tra i ministri della zona euro c'è forte fiducia che il via libera agli aiuti per la Grecia ci sarà lunedì durante l'Eurogruppo, e non è proprio sul tavolo l'ipotesi che non si giunga ad un accordo in quella sede, quanto si apprende oggi da fonti europee vicine al dossier. Più aspettiamo, più sale il costo per tutti, l'incertezza costa e dobbiamo mettere fine a questa attesa, riferiscono secondo alcune agenzie appunto queste stesse fonti. Speriamo bene. Allora andiamo agli ascoltatori, visto che abbiamo promesso che avremmo parlato anche dello swap, del concambio, dello scambio appunto di titoli greci vecchi e con quelli nuovi in questa prospettiva di ristrutturazione appunto del debito sovrano greco che si avvicina sempre di più. Sentiamo come potrebbero o non potrebbero essere coinvolti i piccoli risparmiatori. Ne sento un paio, visto che ci sono due casi pronti ad intervenire. Giorgio da Trento inaugura le chiamate di oggi. Giorgio, buongiorno. Buongiorno a tutti innanzitutto. Poi volevo dire, io sono possessore di obbligazioni della Repubblica Greca che scadono nel 2014. Volevo sapere La decurtazione riguarda tutte le obbligazioni emesse dalla Repubblica Greca o solo quelle che scadono a marzo? A marzo. Quest'anno. Grazie Giorgio. Volevo sentire anche Alberto, così abbiamo un quadro un po' più completo dei vostri casi. Alberto, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, leggo anch'io dei titoli greci, scadenza luglio 2015. E sostanzialmente volevo sapere qualcosina di più in merito a questo swap e un'altra piccola domanda per conoscere la preparazione professionale del mio promotore, da quando è iniziato il pericolo, il periodo sospetto e quindi da quando un promotore un po' attento non doveva proporre questi acquisti. Vi premetto che ho comprato a 96 punti con un rendimento di 3.5. Quando li ha comprati lei, Alberto? Mi sembra 2009. Va bene, la ringrazio, buona giornata Alberto. Alberto vuole mettere alla prova anche appunto la preparazione professionale del suo operatore. Io credo che già in qualche maniera il focolaio Grecia nel 2009 si fosse acceso, Ragaini. Assolutamente sì, dal 2000 al 2008 gli spread degli emittenti sovrani europei sono rimasti sostanzialmente allineati al livello del Bund, quindi il meccanismo europeo era perfetto. Dal 2008 abbiamo avuto l'Irlanda che ha iniziato ad allargare gli spread e poi nel 2009 è arrivata anche la Grecia. Evidentemente il prezzo di acquisto che l'ascoltatore ci ha appena riportato, 96, evidenzia che in quel momento il mercato non stava scontando una tensione alta, perché poi abbiamo visto i titoli scendere ben sotto il livello di 96, per cui in quel momento, se dobbiamo pensare che il mercato esprime sempre la sintesi di tutte le informazioni in circolazione, il mercato non stava scontando un rischio effettivo di default. Probabilmente le attese future degli spread erano già nella testa di qualche investitore. Senta, andiamo invece alla questione appunto delle obbligazioni che hanno in portafoglio gli investitori italiani, i piccoli risparmiatori, perché è una questione che è stata sollevata appunto anche da alcuni ascoltatori in una trasmissione precedente di Salvadanaio, che noi avevamo respinto con fermezza, perché questo lo devo dire, devo ammettere, devo cospargere il capo di cenere, naturalmente, perché qualche ascoltatore aveva detto di aver letto in passato che di fronte ad un'ipotesi di ristrutturazione del debito greco esisteva la possibilità e comunque la discussione sul tavolo che i piccoli risparmiatori potessero essere esclusi dalla maxi ristrutturazione e quindi riottenere indietro tutto l'ammontare appunto dell'investimento effettuato, poi chiaramente dipende anche dal tipo di obbligazione. Allora, dottor Ragaini, di questo poi peraltro nei giorni scorsi ne ha scritto anche Isabella Bufacchi, la collega delle Sole 24 Ore, a quale tavolo è stata fatta questa ipotesi, perché sarebbe comunque una circostanza straordinaria mai praticata in passato in altri default, appunto in altre bancarotte di altri stati sovrani? Sì, è un'ipotesi mai praticata, quindi per spezzare una lancia anche alla sua riflessione della settimana scorsa, in effetti le ipotesi possono essere tante, non sono confermate. In questo caso si tratterebbe di un'ipotesi che prevede una partecipazione degli istituti privati al bailout della Grecia, ma non dei piccoli risparmiatori, nel caso in cui il salvataggio fosse accettato da almeno il 90% delle controparti presenti. Quindi è un'ipotesi che è sul tavolo in questo momento, ma non è stata confermata a livello ufficiale e tra l'altro non so neanche quanto sia facile che si arrivi a un accordo con almeno il 90% delle banche creditrici. Quindi da confermare sotto due punti di vista: il primo, raggiungere il 90%, e poi una volta raggiunto il 90%, se viene confermato che i piccoli risparmiatori non vi parteciperebbero. Io invito tutti i possessori di titoli greci a non fasciarsi la testa in alcune giornate e a non gioire in altre giornate fin quando non c'è un accordo concluso, perché le cose cambiano nelle ipotesi davvero di giorno in giorno. Certo, ecco, per rispondere invece alla domanda di Giorgio da Trento, che ha queste obbligazioni della Repubblica Greca con scadenza 2014, nel caso della ristrutturazione appunto, come si fa ad individuare la tipologia delle obbligazioni, dottor Ragaini, che ricadono all'interno appunto della operazione di ristrutturazione? Come fa Giorgio a capire se anche il suo titolo eventualmente dovesse essere ristrutturato, nell'ipotesi naturalmente in cui tutti quanti, piccoli e grandi investitori appunto, fossero coinvolti nello swap, chiamiamolo così all'inglese, anche se so che non piace a molti. Allora, il tema dell'ercato, della decurtazione dovrebbe colpire tutti i titoli in scadenza dal momento in cui viene annunciata, quindi non solamente quelli di marzo 2012 evidentemente, che scadono il 20 marzo, ma anche quelli degli anni successivi. Ci potrebbe essere anche un'applicazione di tagli differenti a seconda delle scadenze o dei programmi di scambio differenti a seconda delle scadenze, però anche in questo caso siamo nell'ambito delle ipotesi, per cui è molto probabile che se ci sarà un haircut anche per i piccoli risparmiatori ci sarà un taglio del valore nominale, questo riguarderà tutti i titoli. Poi può essere che il taglio sia diversamente proporzionale in funzione della durata dei titoli stessi. Tra l'altro, magari proprio per esemplificare al massimo, adesso devo anche andare in pausa, fatto 100 il valore nominale di un titolo appunto in possesso di un risparmiatore, ci dice proprio appunto percentualmente di quanto dovrebbe essere tagliato e quali dovrebbero essere le modalità di restituzione eventualmente con lunghissime scadenze, se non ricordo male, appunto di questo investimento? Allora, le ipotesi, dottoressa, sono che si tagli il 50% del valore nominale, quindi diventi 50. Il 35% di questo 50 verrebbe dato con titoli lunghi, non si sa ancora la durata, e il 15% in cash, in contanti. Benissimo. Quindi la perdita sarebbe di circa il 70%. Il 70%, ecco perché arriviamo a questo haircut del 70%. Allora, Salvadanaio oggi è ritornato il Salvadanaio sulla crisi greca per valutare l'impatto sui mercati finanziari delle ultime novità delle quali abbiamo parlato a lungo con Giuseppe Marsi di Schroders e Andrea Ragaini di Banca Carige. Stiamo cercando di capire anche quali a questo punto possono essere le scelte di investimento corrette alla luce di un'attenzione che comunque ancora si protrae sui mercati da parte dei piccoli investitori. Abbiamo affrontato la situazione di coloro che detengono obbligazioni greche, adesso andiamo invece a chi, come dire, si guarda attorno. Emanuele, buongiorno. Buongiorno, scusa un po' l'emozione. No, ci mancherebbe. Io vi ascolto sempre, complimenti di tutto, insomma. Grazie, ci dica. Io faccio una domanda un po' con uno scenario un po' più tragico. Se fallisce la Grecia, crea un effetto domino, come noi sappiamo. Un piccolo investitore come può tutelare il suo risparmio da una caduta pure dell'euro, tragicamente? Allora, Emanuele, diciamo che questo al solito è uno scenario che noi non vorremmo mai che si disegnasse, però come abbiamo già detto anche tante altre volte, sappiamo molto bene che piccole e grandi istituzioni finanziarie nei loro uffici studi questo scenario se lo sono disegnato e come più volte, per cui avranno anche valutato gli eventuali paracaduti da adottare per sé e anche per la propria clientela, la clientela che si segue. Peraltro anche Mario Monti all'Europarlamento un paio di giorni fa ha detto che la disgregazione dell'euro è un rischio, per cui non è un'ipotesi che assolutamente non si deve prendere in considerazione, ma che in molti ancora hanno bene in testa, almeno fino a quando definitivamente il quadro greco non si sarà chiarito. Allora, un paese non fallisce, Giuseppe Marsi ristruttura il suo debito, di fatto la Grecia è fallita perché verso lo swap deve andare, però l'ascoltatore è preoccupato di qualcosa di più ampio, il domino sugli altri paesi, il Portogallo, l'Irlanda, chissà, l'Italia. Ecco, come ci si mette al riparo di tutto questo? Come si fa a proteggere il proprio risparmio? Io so che avrebbe bisogno di 3 ore. Però siccome, come ha detto prima, è un qualche cosa che tutti noi stiamo analizzando e abbiamo cercato tutti noi di trovare delle soluzioni, direi che la cosa più semplice è questa. Bisogna, quando qualcuno fallisce e può avere un effetto domino, bisogna allontanarsi il più possibile dal baricentro di questo terremoto, dall'epicentro, scusi, di questo terremoto. Quindi il nostro consiglio è una diversificazione verso obbligazioni di aree che sono molto lontane dall'area europea, anche se dobbiamo in tutta franchezza dire che la situazione è una situazione mondiale, diventerebbe una situazione mondiale, però ecco, obbligazioni di paesi come l'America, obbligazioni di Singapore, obbligazioni brasiliane, canadesi, australiane, di tutte queste nazioni di un altro emisfero e di governi che sono in una situazione di deficit di fatto molto migliore da quella europea, sicuramente protegge. La diversificazione aiuta, quindi non solo un'alternativa, come tutti voi sapete molti hanno investito in Bund tedeschi pensando che la Germania comunque ne venga fuori da una situazione di break up e quindi di distruzione dell'euro in maniera migliore rispetto ad altri paesi, alcuni invece vogliono proprio andare al di là dell'oceano e andare verso lidi diversi dove ci sono una crescita economica importante, una crescita sociale importante, dove ci sono politiche di bilancio di lungo termine con bassi debiti. Mm. Quindi di fatto mi sta dicendo che voi di Schroeder se praticamente siete fuori dall'area euro da un bel po' e guardate altrove anche come suggerimento di investimento ai vostri clienti, che sicuramente non sono zia Maria o la nonna. Ma no, non le nascondo che questo non possiamo dire che sia vero, possiamo dire che alcuni clienti la pensano oppure sono determinati e quasi convinti e condividono il pensiero del nostro ascoltatore, quindi noi dobbiamo rispettare, far sì che appunto negli investimenti si seguano queste visioni. Ragaini, volevo tornare da lei per un'ultima riflessione, stiamo andando già verso la chiusura. Allora, se si dovesse verificare un fallimento greco conclamato e quindi una ricaduta anche sul resto dell'Europa, magari anche scongiurando una disgregazione, ma come dire una corsa ai salvataggi dei paesi periferici, anche se insomma questa definizione non ci piace più, a Monti non piace, ma dobbiamo continuare ad utilizzarla, è chiaro che le ricadute sarebbero di natura mondiale, e questo per arrivare a dirle come mai in questi giorni Wall Street è arrivata addirittura a riportarsi sui valori di 3 anni fa, come mai guarda con questo distacco anche alla situazione europea a giudicare delle performance appunto di borsa, poi magari politicamente chiaramente le preoccupazioni saranno di altra natura. Una risposta è sicuramente l'abbondantissima liquidità che c'è sui mercati. In Europa è stato dato un'erogazione di 490 miliardi in dicembre, ne verrà data una probabilmente analogo, superiore tra poche settimane a fine febbraio. Ah, sarà superiore, dice, mi sembra che Draghi avesse detto che voleva dare qualcosa di meno. Guardi, io allora, siccome è un pronti termini di importo illimitato di tasso fisso e di durata triennale, in cui possono essere ammessi come collaterale forme di attivo, quindi titoli di livello superiore, quindi diversi rispetto, anche più ampi rispetto a quelli che sono stati consentiti a dicembre, io mi aspetto un importo superiore ai 500 miliardi di euro, che è stato 489 l'ultima emissione, quindi un'abbondantissima liquidità in Europa. In America usciamo da due fasi di livello quantitativo imponenti, di 700 miliardi di euro la prima e di 600 la seconda, quindi di fatto la grandissima liquidità sui mercati, il restringimento dei rischi sugli spread periferici porta ad avere appetito verso la classe di investimento. Non dimentichiamo che il price earning è a un livello basso, è a 12.6 a livello mondo, quindi rispetto a livelli molto superiori delle medie mobili a lunghissimo periodo. Quindi questa è una delle prime risposte. La seconda riguarda l'interconnessione sempre maggiore. In effetti l'interconnessione ormai è un qualcosa che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo in modo ampissimo a livello di informazione, a livello di numeri, e questo comporta il fatto che probabilmente oggi ci si può allontanare molto, ma una parte di azioni, una parte di obbligazioni verso il paese core, quando proprio anche in queste trasmissioni confermiamo che una delle probabilità più forti sia che l'area euro rimanga in vita, è un qualcosa che si può fare, ma senza dimenticare che a livello probabilistico, se la probabilità massima è che si verifichi uno scenario, una parte di quella probabilità deve essere rispecchiata dalle classi di attivo che inseriamo nei portafogli. Allora, ci dobbiamo fermare perché la nostra trasmissione è terminata. 10 secondi a Giuseppe Marsi. Lo riusciamo a tenere sotto i 400 punti questo spread, oppure dovremmo ancora abituarci ad altre situazioni di capolino al di sopra di questo livello, come è successo ieri? Ma guardi, io ripeterei una frase, non posso riferire chi l'ha fatta, ma di un grande investitore americano a cui io feci questa domanda proprio 2 settimane fa, e lui mi ha detto: io comprerei titoli di Stato a lungo ma spegnerei per 6 mesi la Reuters. Ah, molto bene, d'accordo, quindi giornalisti da zittire, nella sostanza. Grazie Marzi, buona giornata, grazie a lei, a Giuseppe Marzi, ad Andrea Ragaini, grazie a Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, Filippo Aureggi, Pippo Di Gene, assistenza tecnica, Salvadanaio torna lunedì, buona giornata a tutti.